si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme fino alle 10 questa mattina. Un'occhiata non tanto alle prime pagine dei giornali come sempre, perché oggi i giornali non sono usciti, dopo il 1° maggio è tradizione dare un'occhiata ai principali siti di informazione. Apriremo il numero verde dopo il giornale radio delle 8, però per il momento, se volete cominciare da subito a interagire con noi, vi ricordo i nostri contatti come sempre: l'SMS 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Si può fare, Si può fare trattino radio 24. Siamo anche su Twitter, l'account Twitter di Si può fare, Si può fare 24, il mio personale è @ Ale Maurizi. E vi dico subito che dopo il GR delle 8 cominceremo con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie come filtro per leggere l'attualità. Andremo anche noi a Expo a santificare il grande evento, ma parleremo con chi ha lavorato fino alle ultime ore, forse ancora adesso sta lavorando, cioè con i lavoratori, e in particolare quelli che hanno dato una mano a finire il padiglione del Nepal, che come sapete i lavori erano stati interrotti perché il personale nepalese era rientrato nel paese per aiutare dopo il gravissimo terremoto della settimana scorsa. E poi parleremo della xylella, responsabile della malattia di molti ulivi nel nostro sud Italia, in Puglia in particolare. A proposito di Expo e di nutrire il pianeta, ci sono a rischio ettari, centinaia, migliaia di piante di ulivo. Vedremo come e perché un movimento di cittadini nato spontaneamente sta cercando di curare in maniera naturale le piante di ulivo da quelle parti, e ci stanno riuscendo. Adesso andiamo ad iniziare, vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora andiamo a vedere come i principali siti di informazione stanno tenendo aggiornate le loro pagine in queste ore, dove naturalmente si parla con tanto di foto, racconti, video e interventi sui social della giornata di follia vissuta ieri a Milano dalla tarda mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio e in parte anche nella sera. La grossa domanda che tutti si fanno è se questa devastazione portata dai Black Bloc durante il corteo, infiltratesi nel corteo No Expo, sia in grado di oscurare la bella pagina invece vissuta la mattina all'inaugurazione di Expo, con tanto di cerimonia ufficiale, di messaggio del Papa, di coro dei bambini che come sapete hanno cambiato l'inno d'Italia, è stato cambiato l'ultima parola, siamo pronti alla vita. Il tema dell'Expo Nutrire il Pianeta era ricco naturalmente di spunti. Il Papa ci ha messo un po' di sale perché ha messo in guardia il grande evento dall'essere l'ulteriore contributo allo spreco e da non riuscire veramente a dare una mano a chi oggi nel mondo, e sono tantissimi, troppi, hanno problemi a mettere insieme il pranzo con la cena. però la mattinata era andata via così, qualche goccia di pioggia, il grande rito dell'inaugurazione di Expo, 200.000 visitatori, poi il pomeriggio a Milano è successo quello che è successo, lo avete visto più o meno tutti nelle immagini in televisione, e appunto la domanda oggi è se questo, quello che è successo, diciamo, oscurerà l'immagine all'estero, soprattutto nell'Italia, oppure invece se prevarrà soprattutto sul lungo periodo la sensazione di l'inizio di un grande evento con tutto quello di positivo che si è raccontato, considerando che ci sono stati un po' di feriti, non ci sono state vittime. Tutto sommato possiamo anche pensare che l'immagine positiva possa prevalere su quella negativa, però andiamo a vedere. Intanto Corriere della Sera, barricate e Molotov, Milano devastata, Alfano dimettiti, è l'invito che arriva da diverse parti politiche, dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle in particolare, ma lui replica: è stato evitato il peggio, Renzi non commento, le azioni più violente vicino alla stazione Cadorna, gli incappucciati hanno lanciato bombe, carta e petardi, auto e negozi incendiati, in fiamme anche una sede della BNL, lancio di pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine. Dal Corriere due commenti. Il primo, diciamo, più incline non tanto al pessimismo, perché non è nel personaggio, Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere, quanto, diciamo, a sottolineare il titolo è: Expo, l'immagine deturpata da un corteo di delinquenti, cioè delinquenti che, come sempre, pur essendo pochi ma essendo ben agguerriti, riescono a rovinare la festa ai più. Chi devasta una città non difende i diritti di nessuno. Leggiamo: l'immagine che si sovrappone alle bandiere dell'Expo è devastante, fa male, brucia come le fiamme che avvolgono le auto e i cassonetti. È un'immagine di guerra, di violenza, di stupida follia distruttiva. In due ore le strade di Milano hanno oscurato con i fumogeni le luci dell'esposizione. Hanno fatto il giro del mondo, sono diventate il video al quale si attaccheranno tutti quelli che non aspettavano altro per accusare una città, un paese, la sua polizia e il suo premier. Invece, quel che si deve dire subito è che i protagonisti di un inaccettabile pomeriggio da altri tempi sono semplicemente delinquenti, tristi e ridicoli delinquenti da fermare, processare e punire, estremisti, provocatori arrivati dall'Italia e dall'estero sotto l'ombrello di una manifestazione che da domani, dice Schiavi, dovrebbe, il May Day, questa è la manifestazione, che da domani dovrebbe essere abolita, tanta è la sua inutilità e la sua pericolosità per i cittadini e le forze di polizia. Un commento, diciamo, di segno diverso è quello sempre sul Corriere della Sera di Luigi Ferrarella, che vuole andare a mettere in evidenza come tutto sommato veramente poteva andare peggio. Pensiamoci un attimo: Milano, Expo e caos. No, Expo paradossalmente è andata bene. Il racconto della giornata tra l'Expo e la devastazione del centro di Milano, scrive Ferrarella. Come è andata? Bene. Può sembrare una bestemmia o un paradosso arrischiarsi a dirlo dopo la devastazione di alcune vie del centro di Milano. E invece, a quest'ora, l'articolo scritto ieri sera, e sperando che la situazione non precipiti, sabato sera alla Scala non è successo, o domenica, è proprio così. Compatibilmente con la carica di violenza che da centinaia di professionisti della devastazione calati da Germania, Francia e Spagna era preventivato venisse sprigionata sia in occasione del corteo delle organizzazioni autorizzate sia anche indipendentemente da esso, il risultato: nessun ferito serio, 11 contusi tra i poliziotti, è già una gran cosa. Certo, può darsi che su TV e media stranieri l'immagine dell'Italia rischi di essere ancora agganciata alle immagini di auto incenerite, incendiate, vetrine di banche infrante, eccetera. È vista da ignari osservatori fuori Milano, è comprensibile che la domanda di molti sia: ma perché non li hanno fermati prima? Perché non potevano essere fermati prima? Scrive Ferrarello. Non alle frontiere, essendo comunitari e spesso difettando anche la collaborazione delle autorità straniere. Tre giorni fa 20 francesi erano stati fermati, non erano potuti essere espulsi perché erano scadute le 24 ore per l'identificazione, anche a causa di riflessi non fulminei del consolato francese. Insomma, il commento è questo. Sicuramente qualche ritardo nella attivazione della collaborazione tra la giustizia italiana e quella straniera, francesi, tedeschi, inglesi, erano questi lanzichenecchi, c'è stato. Però sono comunitari, non li puoi fermare, perché c'è libertà di circolazione, e tutto sommato, considerando che non c'è scappato né il morto né il ferito, è andata bene. Prosegue Ferrarella, neutralizzate nelle possibili conseguenze più pericolosi. È quello che entro certi limiti è accaduto. Come sempre, la risposta facilona o pertinente a un quesito dipende dalle corrette premesse della domanda. Di fronte a una legione di sfasciatutto che dall'intera Europa, sin dalla devastazione della BCE di Francoforte a marzo, si erano dati appuntamento per il secondo round proprio al 1° maggio di Milano, l'ordine pubblico deve avere come priorità salvare l'immagine della città oppure salvaguardare l'incolumità delle persone? La risposta giusta, nella logica dell'ordine pubblico, è meglio indirizzare e costringere entro un binario prestabilito di relativa gestione i devastatori, anche accettando lo scacco di veder bruciare qualche auto e rompere alcune vetrine, piuttosto che rischiare che qualcuno si faccia male sul serio. Questo è un punto di vista, naturalmente, ma io personalmente sono d'accordo, ma ripeto, potevamo essere qua a fare la conta dei feriti gravi o anche del morto, e allora il discorso sarebbe stato ben peggiore. Dopodiché poi chiaramente ognuno la pensa come crede, soprattutto sul fatto che sia giusto o no far passare certa gente che diciamo ce l'ha un po' scritto in fronte, no? Che è malintenzionata. Allora, però, chi sono questi Black Bloc? Vediamo se trovo su Repubblica da qualche parte, mentre lo cerco, anzi no, mandiamo il traffico perché c'è tutto il rito della vestizione, della svestizione. Lanciano i fumogeni, si crea una cortina fumogena, si travestono di nero, spaccano tutto, dopo mezz'ora rilanciano altri fumogeni, si tolgono l'abito, così scrivono i giornalisti che erano presenti, ma ci sono anche le foto, e poi dopo si confondono di nuovo tra la folla. Lo leggiamo tra un attimo. Traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche e più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, vi ricordo sempre i nostri contatti se volete interagire con noi in tempo reale: l'account Twitter del programma è @sipoffare24, la pagina Facebook è sipoffare_radio24, il mio account personale @alemaurizi su Twitter. Continuiamo a dare un'occhiata ai principali siti di informazione, tenendo conto che oggi i giornali non sono in edicola e quindi vi aggiorniamo così. Stavamo leggendo chi sono questi Black Bloc. No Expo, scrive Corriere sempre, giacche nere a terra, con il fumo scatta il cambio d'abito. I Black Bloc si muovono all'unisono, non appena il fumo è denso si coprono con tute e caschi per poi abbandonarli dopo le devastazioni. In effetti le foto che vediamo oggi sono proprio queste. Ci sono tutto l'armamentario di mazze, tute, giacche, tutto nero, passamontagna, gettati in terra dopo essere stati utilizzati. Il momento della vestizione scatta all'angolo tra via di Amicis e via San Vittore. Vengono accesi contemporaneamente decine di fumogeni arancioni, viola. Il fumo è denso, la visibilità scende all'improvviso. Lo schermo serve ai violenti per cambiarsi d'abito. Alcune centinaia di persone indossano kiwi neri e blu scuri, maschere antigas, caschi. In tanti si accovacciano a terra. La vestizione, nascosta dalla cortina fumogena, dura meno di un minuto. Poi iniziano le devastazioni. Lungo il tratto di via Carducci, il gruppo, ora tutto in nero, si muove compatto e comincia a spaccare tutto: vetrine, cassonetti, due auto in fiamme, eccetera. Dopo altri vandalismi e scontri, lo schema si ripete all'inverso. Vengono accesi altri fumogeni, si crea di nuovo la nebbia e il blocco si sveste. Vengono lasciate a terra le kiwi nere, le maschere antigas, i bastoni, i caschi. Il gruppo torna a mescolarsi con altri colori nel resto del corteo. Una strategia capite bene, è infallibile, perché dopo non sono più in alcun modo riconoscibili, anche se ha detto il sindaco di Milano Pisapia: attenzione, c'erano un sacco di telecamere accese perché nel centro della città è normale che sia così, tra banche, vigilanze private e quant'altro. Visto quello che è successo, verranno attentamente osservate le immagini, e si spera che, oggi lo dicono in molti commentatori, insomma, che qualche decina, se non qualche centinaia di questi qua che hanno operato vengano riconosciuti venga resa giustizia per quello che deve essere. Andiamo su commenti di ordine diverso. Per esempio, dove andiamo? Abbiamo detto Corriere, Repubblica, Sole 24 Ore. Adesso andiamo su Libero Quotidiano, che scrive: violenti no Expo, la rabbia esplode sul web, 100.000 Diaz, dateli all'ISIS, oppure i giudici complici dei Black Bloc, così li hanno lasciati andare. Cominciamo con il Libero va a raccogliere alcuni commenti, credo, sul web, perché non ci sono i link alle pagine, ma neanche gli screenshot dei post su Twitter o su Facebook. Il titolo è: No Expo, la reazione della gente contro i violenti di Milano, dateli all'ISIS, oppure qualcuno inneggia a Mille Diaz dopo, sapete, la condanna anche della Corte di Strasburgo dei diritti umani all'Italia per quello che accade alla Diaz. Una parte dell'opinione pubblica rifiuta il concetto che, o anche viene citato all'introduzione del reato di tortura da parte delle forze dell'ordine, una parte dell'opinione pubblica rifiuta l'idea che le forze dell'ordine possano essere messe in croce per il loro operato, o possano essere anche condannate per degli eccessi nel loro operato, trovandosi di fronte a gente come per esempio quella di ieri. Sia su Twitter sia su Facebook, scrive Libero Quotidiano, i commenti di molti sono inviperiti: poveri figli di radical chic che li difendono, si legge tra le tante reazioni indignate anche contro i giudici che hanno la mano morbida contro quelli che sono stati fermati nei giorni scorsi. Si sentono protetti e fanno quello che vogliono. Che schifo, ma sono sempre gli stessi. Possibile che il governo non prenda provvedimenti? Speriamo che questa volta gli arrestati li mandino in viaggio premio di sola andata in qualche campo dell'ISIS per una rapida rieducazione. L'immagine certo è efficace, insomma, perché potrebbe essere istruttivo per alcuni di questi trovarsi di fronte a chi, diciamo, la violenza la maneggia anche con più sapienza. Ma naturalmente questo è solo, diciamo, per quanto mi riguarda, una battutaccia. Poi ancora commenti che hanno a che fare con, sempre su Libero Quotidiano, con la rabbia della gente: la guerriglia no Expo è colpa dei giudici, perché se riesco a sbloccare in tempi rapidi il sito di Libero Quotidiano che si sta impallando. Volevo leggervi i commenti, ecco, riportati: la rabbia della gente esplode pensando alle tante sentenze dei giudici contro la polizia, l'ultima quella sulla scuola Diaz, e anche a proposito dell'introduzione del reato di tortura. Attenzione, scrive un Vittorio, ripeto, però sono frasi riportate, ma non ci sono i screenshot dei post, quindi non c'è nome e cognome di chi ha scritto queste cose. Però potrebbe scattare il reato di tortura, cioè il commento ironico di questo Vittorio. Poi c'è: sono manifestanti pacifici, perché fermarli? Sarebbe tortura, aggiunge un altro. Poi Carl: fa bene a non intervenire dopo certe sentenze la polizia, che è ormai stata disarmata da certe sentenze, appunto. Poi ancora un tal Angelo che dice: perché tanta meraviglia? Dopo la condanna come torturatori a un capo che invece di difenderli li sospende, dopo i giudici che mandano sempre liberi i delinquenti che vengono catturati, perché mai i poliziotti dovrebbero rischiare di essere condannati? Un piffero disse: non siamo a Beirut. Beh, siamo peggio. Naturalmente, ora io non lo so, ma il reato di tortura qua non c'entra niente. Cioè, se ieri la polizia avesse preso a manganellate, come anche in parte è successo, qualcuno di questi Black Bloc, non credo proprio che sarebbe configurabile in nessun modo il reato di tortura. Il reato di tortura è stato prefigurato quando in strutture protette delle forze dell'ordine, come è successo anche a Genova, per tenere sotto controllo numerosi arrestati, venivano date delle manganellate di troppo. troppo, in mezzo alla strada è tutto un altro paio di maniche, ma ripeto, anche qui poi ognuno è libero di vederla come vuole. Vorrei chiudere però con qualche altra segnalazione. Se riesco ad aprire intanto il Sole 24 Ore per parlare anche della giornata di ieri, l'inaugurazione dell'Expo, anche se di questo si era parlato molto nella prima parte della giornata. Andiamo invece sui cortei del primo maggio. Primo maggio, Mattarella, il lavoro è la prima priorità. È iniziata così la giornata del primo maggio con il messaggio di Mattarella, poi il raduno dei sindacati che hanno scelto Pozzallo, città simbolo per l'Europa, Camusso, Furlan e Barbagallo in provincia di Ragusa, uno dei porti simbolo dell'accoglienza degli immigrati. Prima dell'inizio della manifestazione, un minuto di silenzio in ricordo dei morti nel canale di Sicilia, poi una corona di fiori in mare. La Camusso ha criticato Renzi sui temi del lavoro, c'è solo la propaganda di chi continua a dire che con un decreto si crea l'occupazione. Il leader della CGIL invita anche il governo a rimettere mano alla legge Fornero. Poi che altro, siamo quasi in chiusura, quanto abbiamo, poco, vediamo. Dunque, piazze in musica per la festa del primo maggio, scrive La Stampa. Le piazze sono quella di Roma, naturalmente, dove c'è stato il concerto principale, 1 milione di persone, la serata condotta da Camilla Rasnovic. L'altra piazza è stata quella in contemporanea di Taranto, dove si sono esibiti tra l'altro Caparezza, Baccini, Subsonica, 100.000 persone anche nella piazza di Taranto per quest'altro concerto del primo maggio. È tutto per la rassegna stampa, ci ritroviamo con Si può fare dopo il giornale radio, a più tardi, a tra poco. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 00 24, vi aspettiamo anche oggi numerosi per intervenire, per parlare con noi. Dopo una giornata strana, stranissima, strana, di ieri. Molto strana, sono d'accordo. Non ero a Milano ieri alla mattina, in realtà ero a Verona perché ero lì a presentare il mio libro Fossi in te, io insisterei, però verso le 2 sono arrivato a Milano ed ero indeciso se andare in manifestazione o meno. Poi ammetto che la pioggerellina mi ha un po' bloccato e la stanchezza, e alla fine non ci sono andato. E poi questa manifestazione oscurata da 500 deficienti, idioti, criminali. Quello che criminali che... sicuramente delinquenti, a loro insaputa, se vuoi, no, non lo so, ma sicuramente non direi loro insaputa, che comunque hanno oscurato completamente la manifestazione di 30.000 persone che invece erano in piazza per altre istanze sul lavoro, anche cose importanti, anche un possibile dissenso nei confronti di Expo, che però è stato completamente oscurato. Devo dire che io personalmente faccio invece i complimenti alle forze dell'ordine per come si sono comportati, perché caricare il corteo sarebbe stato assurdo, era pieno di persone che invece erano lì con i bambini per manifestare per il giorno dei lavoratori, e quindi questa tecnica, diciamo, di lasciar fare anche un po', che ovviamente preoccupa molto perché uno poi vede, alla fine conta le macchine. Ieri a un certo punto si diceva le macchine, 20 macchine carbonizzate, le banche, alcune banche distrutte, però in questo modo si è diciamo perlomeno si è evitato lo scontro vero, si sono evitati i morti, si sono evitati molti feriti, e credo che siano da applaudire perché hanno avuto un sangue freddo e una fermezza, in realtà, alle forze dell'ordine. Sai cosa, è mancato ieri, no? È mancato, adesso la butto quasi in battuta, è mancata una mamma come quella di Baltimora, che arrivasse qualcuno a prendere per la collottola uno di questi qua e riportarli, diciamo, non lo so dove, a casa. È molto vero questo che dici, ma infatti secondo me non è un caso che vanno lontani da casa, perché la maggior parte di questi ragazzotti erano stranieri, erano tedeschi, erano inglesi, e quindi è difficile che una mamma mamma prenda un treno e ti segua fino a Milano, perché se lo fai sotto casa tua la mamma viene e ti prende. Infatti forse le mamme italiane, tipo quel ragazzino che invece è stato intervistato, che ha fatto il giro d'Italia al TG5, sì, che ha fatto delle affermazioni assurde del tipo andiamo fuori per fare il casino, cioè se quello lì è il punto di vista di un ragazzino che ovviamente non c'entra probabilmente niente con i Black Bloc, era semplicemente vestito di nero con una Kiwi nera e sosteneva delle cose insostenibili, ovvero andiamo in piazza semplicemente per far casino senza sapere nulla di che cos'è il primo maggio, ma neanche di che cos'è l'antagonismo, di che cos'è la protesta, di che cosa significa andare in piazza per i propri diritti, fiume in piena oggi, il diritto Carlo. Oggi sei di avere in piena. I propri diritti. Sì, allora io sì, sto cercando, sono molto abbacchiato, sono rimasto tristissimo dalla giornata. Io invece di sono ieri. Un po' in silenzio perché sto cercando di avviare qua il computer che ci consente normalmente di così di leggere le notizie in tempo reale, di dialogare ma con la regia. Ma meglio parlare di ieri piuttosto che di bloccato. Problemi tecnici, se non no sembriamo so. Mentana. Già giusto? Ieri Anonymous se l'è presa con il sito di Expo dove si prenotano i biglietti e infatti c'è stato qualche problema, per esempio quelli che avevano l'abbonamento semestrale non riuscivano a stamparlo e quindi sono rimasti fermi all'ingresso per un po' perché era tutto bloccato. Adesso Anonymous se l'è presa anche secondo me coi server del Sole 24 Ore perché è tutto impallato. Vabbè, lo risolveremo strada facendo. 800 24 00 24 il numero verde non cambia per intervenire in diretta. Oggi in palio sempre un premio offerto dall'Associazione dei Comuni Virtuosi e oggi vi chiediamo, cari ascoltatori, premieremo la risposta che ci piace di più. Cosa vi chiediamo? Qualcosa relativo al primo maggio, per esempio chi ha lavorato ieri ci vuole raccontare la sua giornata con un po' di mestizia chiaramente, perché avreste preferito essere anche voi da qualche parte con gli amici a festeggiare, a santificare il lavoro. Come l'avete passato sto primo maggio? Speriamo che chiami qualcuno delle forze dell'ordine, un poliziotto, un carabiniere che ieri hanno dovuto lavorare sul serio. Oppure se volete raccontarci anche quando eravate piccoli cosa sognavate di fare da grandi, il lavoro che volevate fare da grandi e se siete riusciti a farlo. 800 24 00 24. A proposito di lavoro, tra pochissimo andiamo a santificare l'Expo parlando con chi ha lavorato per costruire i padiglioni fino all'ultimo minuto. Ma secondo me sta ancora lavorando, sta ancora di sicuro. Ieri... Ma mi piaceva santificare l'Expo, che sì, ormai è diventato un pezzo della liturgia milanese. Sì, italiana e mondiale. Ieri, quando durante la cerimonia si sono visti i lavoratori col caschetto e la pettorina gialla andare con la bandiera in mano, no, a issare il tricolore, il più anziano capocantiere, cioè, esatto, io ho fatto una battuta, eravamo in diretta su Radio 24, ho detto posano la bandiera e tornano a lavorare perché hanno mica ancora finito. 800 24 00 24 tutto questo tra poco, andiamo ad iniziare, andiamo, vai. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Parliamo dell'aiuto che è stato dato a chi si doveva occupare di costruire in particolare il padiglione del Nepal, una storia che ha colpito molto perché come sapete c'è stato il gravissimo terremoto e insomma gli artigiani nepalesi che stavano lavorando al padiglione, poi una parte di questi sono dovuti rientrare in patria per seguire insomma le vicende dei familiari e dare una mano là dove ce n'era veramente moltissimo, avevano dei lutti bisogno. In famiglia, te ricordiamo. Pensa chi stava lì per cercare di finire il padiglione, già erano in ritardo, poi si sono visti metà delle mano d'opera andarsene, giustamente hanno dovuto accelerare i tempi. Ne parliamo con Renato Caneclin, capo cantiere del padiglione del Nepal, spero di aver pronunciato bene il suo cognome, buongiorno intanto. Buongiorno, sì, l'ha pronunciato bene, io sono il coordinatore per la verità. Il coordinatore dei lavori. Buongiorno. Intanto un grazie a lei, insomma a nome di tutti quelli che hanno lavorato, lo hanno fatto ieri anche le autorità, ma lo vogliamo fare anche noi, è giusto, perché si arriva a prodotto finito, si entra dentro Expo, si festeggia, si celebra, si inaugura con i messaggi di tutti, però è grazie al vostro lavoro. È stata dura in questi giorni fare la corsa finale? Du- dura a dir poco, è stata veramente dura, anche perché ovviamente nel cuore di tutti non c'era solo il lavoro, ma c'era anche il pensiero per queste persone con cui abbiamo lavorato fianco a fianco per mesi e che all'improvviso sono dovute andare via per... Sì. Tutte sono state colpite direttamente sì. da questo evento. Ecco, tra l'altro impegnati c'erano una serie di artigiani, perché io non ho ancora non ho visto, però si sono viste un po' di immagini. Il padiglione del Nepal in particolare presenta anche degli aspetti proprio estetici particolari, quindi proprio un lavoro anche di un certo tipo. È un lavoro di cesello, diciamo, perché... tutte colonne, travi, tutte in legno sono state lavorate a mano in Nepal e sono arrivate qua con dei container. Dopodiché questi artigiani hanno assemblato, montato tutti i templi, montati le pagode e hanno scolpito alcuni particolari direttamente qua. Infatti io mi sono immaginato che quando questa decina di operai con le loro famiglie sono dovuti tornare in Nepal, voi che siete rimasti sul cantiere vi siete guardati in faccia e ora come facciamo a fare i ciselli che sanno fare solo loro? È successo qualcosa del genere? Sì, ma non è possibile, non è possibile. Sono opere d'arte che o le sai fare o non le sai fare, non è che poi... sostituire esatto, ecco. Gli artisti è difficile, non sono sostituibili di solito. No, cioè, infatti. Se va via Totti non è che posso entrare io e fare due palleggi. Non lo so. No, comunque ci sono alcune parti di cesello che non sono completate, ma l'importante, la cosa veramente importante era finire il padiglione, perché a questo punto lo scopo diventava molto più importante di prima. Sì. Questo deve essere una vetrina che per sei mesi ricordi al mondo quello che è successo e che non ci faccia dimenticare di aiutarli non solo sull'onda emotiva ma anche in futuro. Quindi era veramente importante finire questo padiglione. Ecco, ma a proposito Caniglin, lei dice era importante finire, ma ci dica la verità se può, è veramente finito? Perché per esempio oggi qualche sito Fatto Quotidiano dice c'erano gli operai camuffati che si aggiravano mettendo gli ultimi bulloni da qualche parte. Allora guardi, premesso che gli operai non erano camuffati perché erano sporchi, sudati, lerci, quindi non erano camuffati. È vero, stavano finendo. Ieri mattina, poco prima dell'apertura, stavamo ancora lavorando, stavamo ancora pulendo. Il padiglione adesso non è ancora finito. Ci interessava finire tutta la parte di presentazione al pubblico. Sì. Quindi tutta l'entrata, tutta la passeggiata intorno alle pagode con la vista sul tempio. Quindi mi conferma che di notte si continuerà a lavorare, sì, questo è stato detto per finire tutto. Ma fino a quando? Voi ed altri. Fino a quando? Ma no, penso una decina di giorni, non è una cosa tragica. Ecco. No, perché siccome a ottobre finisce tutto, ci chiedevamo se c'erano già qualcuno che stava iniziando a smontare per portarsi avanti, diceva, però almeno smontaggio non lo facciamo in ritardo, quindi magari alcune cose iniziamo già a portarle via, non dico adesso, ma intorno al 3 agosto penso di sì. Ma guardi, allora, adesso stanno ancora lavorando, in questo momento c'è gente nel cantiere del Nepal come in tanti altri cantieri che stanno finendo delle cose. Ma tra l'altro ricordiamo che è anche abbastanza normale, credo, in queste manifestazioni mondiali. Noi siamo in un terribile ritardo, lo sappiamo tutti, però un po' ovunque in realtà si finisce tutta la parte esteriore per le foto e poi lentamente si finiscono i dettagli interni piuttosto che le cose che si vedono meno, giusto? Sì. Cioè non solo per Expo, perché adesso ci sono i riflettori su Expo, quindi basta che ci sia un gabinetto intasato che tutti dicono, vedi, non sono ancora pronti. Ma certo, ma questo penso che purtroppo sia normale. Comunque noi siamo soddisfatti, abbiamo fatto un lavoro, gli operai hanno fatto un lavoro veramente eccezionale, più di una volta abbiamo temuto di non farcela, ma ci siamo proprio posti un obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Senta, l'abbiamo raggiunto ieri mattina, un minuto prima di aprire. Meno male. Con questi operai, artigiani o le famiglie di nepalesi che sono poi rientrati nel loro paese, non so quanto tempo avrete lavorato, diciamo, fianco a fianco nelle ultime settimane, insomma. Sì, si saranno sviluppate forse anche delle amicizie, delle relazioni, siete in contatto, sapete qualcosa, torneranno? Assolutamente. Allora, 5 sono ancora qua. Sì. Sono ancora qua per una ragione molto, molto semplice, ma molto forte. Uno di questi mi ha detto che il suo cuore era ovviamente là con la sua famiglia, i suoi bambini, ma proprio per amore della sua famiglia e del suo paese doveva stare qua per finire questo padiglione, perché questo avrebbe consentito un aiuto alla sua famiglia. Quindi è anche gente estremamente di cuore, è gente... Renato, sento che si sta quasi commuovendo anche lei. Cioè, per necessità, dice, alcuni sono rimasti qua per necessità, sì, perché avrebbero magari un modo... voluto andare, però stare qua è il loro lavoro e quindi è anche il loro modo di aiutare le loro famiglie, come è naturale che fosse. Che dire, insomma, grazie ancora per il lavoro che avete fatto, non solo per quanto riguarda l'aiuto che avete dato al Nepal. C'è stata poi anche questa questione, i giornali hanno scritto inizialmente, lavorano gratis per i volontari, lavorano gratis per fare il lavoro al posto dei nepalesi. Poi c'è stata una precisazione: no, lavoriamo pagati dall'azienda, abbiamo solo fatto i turni straordinari. Com'è andata? Sì, ma diciamo che qualche giornalista un po' sensazionalista, esatto, qualche fan del libro Cuore ha edulcorato un po' la faccenda, ecco. Non abbiamo ha voluto creare la storia a tutti i costi del lavoro gratis. Esatto, invece avete lavorato magari siamo di più. Tutti effettivamente un po' innamorati di questi operai che oltre alle loro 8-10 ore decidevano di devolvere 2 ore e proseguire anche il padiglione del Nepal. Invece com'è andata esattamente? No, è andata che chi stava lavorando ha aumentato il ritmo, ci ha messo proprio veramente il cuore per... E comunque non è una cosa da poco, però, sicuramente. E non è nemmeno così sbagliato quindi dire che avete lavorato gratis, nel senso che se uno aumenta il ritmo e in un'ora invece che fare 2 muretti fa 8 muretti, sicuramente. Mi scusi, dico muretti per ignoranza, ovviamente. Ma ci sono anche quelli. No, è stata veramente una tragedia per tutti e tutti come hanno potuto hanno contribuito a a portare a casa questo padiglione. È stato, scusate se sono un po' emozionato. Sì, la sentiamo, ecco. Ed è comprensibile. Quanti mesi avete lavorato o forse anche di più, non lo so. No, abbiamo iniziato praticamente a fine gennaio, qualche mese. Fine gennaio, ecco, forse a livello di organizzazione si poteva sicuramente iniziare qualche mese prima ed evitare anche a queste persone di fare le corse, di fare le straordinarie. È andata così, ci avete messo il cuore, tutti ci hanno messo il cuore. È andato tutto bene, e questo è l'importante. Grazie. Comunque, sì. Se posso, certo. Sono estremamente certo, felice di aver conosciuto un popolo, delle persone che non conoscevo e che veramente hanno tutto il mio affetto, la mia stima, perché veramente persone, grandi lavoratori, sempre sorridenti. Molto positivi, ecco. È molto bello che dice questa cosa. Ci hanno insegnato, a me personalmente hanno insegnato molto. Io poi che sono un lombardo verace, quindi abbiamo sempre questa tendenza qui a fare, sempre incavolati, sempre. E loro invece sorridono. Ma sì. Beh, deve essere stato un incontro sensazionale tra la gente lombarda, come dice lei, che è sempre a fare, a volte un po' indiavolata, un po' sempre molto pragmatica, e questo popolo invece che ha caratteristiche diverse, anche se poi vi siete ritrovati, una fusione deve essere stata incredibile. E forse è anche un po' un valore di Expo questo, visto che si parla sempre delle critiche. Uno dei valori è proprio il fatto di confrontarsi fra popoli, che ognuno conosca il popolo di fianco e che ognuno condivida le proprie conoscenze, in questo caso quelle legate al cibo, quindi nutrire il pianeta, però anche quelle legate ai muretti, direi. Che ormai l'abbiamo definita muretti. Ve la siete fatta qualche mangiata insieme a base di cibi nepalesi? Io tantissime, per la verità. Cosa hai imparato del cibo nepalese? Qualcosa che riguardi nutrire il pianeta? Diciamo che loro hanno una cucina abbastanza standardizzata, ecco. Fondamentalmente mangiano riso e pollo al curry con cipolle crude, carote, a volte delle salse. Sì. No, io spesso ero invitato a cena a casa loro e sono andato sempre con molto volentieri, perché hanno un'ospitalità. Bene. Ma non a casa loro in Nepal, non è che facevano i pendolari e andavano avanti e indietro dal Nepal tutte le sere? Sì. C'era un aereo, un jet. No, vivevo in un appartamento qua a Pero. Bene, no, siccome c'era stata anche la questione di dove mettere i lavoratori, di dove vivevano i lavoratori, quindi almeno sappiamo che avevano un appartamento a Pero ed erano alloggiati. Avevano il loro cuoco, che è, diciamo, uno di loro che sta a casa proprio per occuparsi delle necessità alimentari di tutti. Va bene. Grazie mille Renato Caneclin, grazie per essere stato con noi, coordinatore cantiere che ha costruito il padiglione del Nepal, avete sentito, con tanto di turni aggiuntivi, insomma di lavori straordinari, poi naturalmente pagati, ma che hanno richiesto, insomma, qualche goccia di sudore in più sicuramente per dare una mano ai colleghi nepalesi impegnati in altre faccende. 800 24 00 24 è il nostro modo per cominciare la puntata di oggi e raccontare una storia all'interno di Expo. Noi vi aspettiamo, cari ascoltatori, adesso facciamo una pausa, vi aspettiamo però anche con il racconto del vostro primo maggio, come l'avete vissuto, se avete dovuto lavorare invece che festeggiare, oppure se ci volete raccontare che cosa volevate fare da piccoli e che cosa fate adesso che siete grandi. Abbiamo già uno che ci ha mandato un bellissimo sms che dice: da piccolo volevo fare il veterinario e adesso lo sono, e ieri mi hanno anche telefonato per un'urgenza e sono dovuto andare, quindi ho lavorato il primo maggio. Francesco da Pisa. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra un attimo. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia, su con Sustemion Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24. Abbiamo Marco che ci chiama da Roma, il primo ascoltatore di questa mattina. Si può fare. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego, molto piacere. Dunque, io ho lavorato perché io sono un dipendente civile del Ministero della Difesa. E sottolinea civile come per dire che ci sono anche dipendenti in civili nel gruppo. Eh sì, purtroppo sì, perché vedete, guardate, un argomento io glielo lascio, poi dopo voi deciderete se un giorno farlo o no. Sì. Decidere quali sono le forze dell'ordine, perché sotto la voce forze dell'ordine anche lì non c'è una razionalizzazione della spesa, anzi, ce ne sarebbe la meravigliosa, perché poi ci parliamo che non c'è sta la benzina per le macchine della polizia e sì, dei carabinieri, e l'esercito sta tutto il giorno in giro con le macchine di servizio. Quindi lei dice ci sono degli sprechi. Ci sono degli sprechi, ce ne sono tantissimi. Fatevi dire quanto hanno pagato. Beh, a gennaio. Uno degli sprechi assurdi è il fatto che i militari vanno in pensione promossi il giorno prima, no? Quasi tutti, al grado superiore, per avere la pensione maggiore. Posso avere una cosa? Allora, è vero, questo è vero, no? O è una leggenda metropolitana? Ma stiamo scherzando, loro hanno scatti d'anzianità solo per l'anzianità. Loro hanno una... Ma loro chi, scusi? Militari, loro chi? Militari che stanno, ma non i militari che stanno a fare i militari che stanno a fare gli impiegati. Negli uffici. Ah. è pieno. Roma siamo l'esempio. Roma è solo i militari che fanno gli impiegati. Vabbè, però quando parliamo di forze dell'ordine di solito non parliamo di militari, che è l'esercito. Perché le forze dell'ordine siano troppo pagate, non concordo. Lui è invitato a distinguere proprio per questo. Quindi io sono d'accordo a prendere questo argomento, perché loro prendono tanti di quei soldi che i carabinieri, i poliziotti potrebbero andare in giro, no, con le macchine, con gli elicotteri tutto il giorno, e loro li usano per andare in piscina, per andare a fare allenamenti, gente che non ha mai visto un teatro operativo. Vabbè, c'è stata quella famosa inchiesta del capo della Guardia di Finanza, se non ricordo male, speciale, che si faceva mandare le aragoste in Trentino pratica di mare. Solamente una cosa, loro prendono un'indennità, la prendono tutti, sia i militari che fanno i militari nei teatri operativi, sia quello che sta in ufficio con me, fa 6 ore al giorno e se ne va a casa come me. Marco, però ci racconti come ha vissuto ieri il suo 1° maggio al lavoro? Guardi, niente, io come tranquillo. Io sto lì in un servizio di portineria, dei guardiania, niente di importante, perché ci stiamo noi a 1300 euro. Ah, lei fa guardiano al Ministero della Difesa? Tutti bene, certo. Certo. Quindi 365 giorni all'anno con turni, con i suoi colleghi, certo, sempre aperto. Con l'indennità di 11 euro. Ma perché la guardia del ministero non ci sono dei militari? No, ci stanno anche civili. Ah. Dipende che tipo di caserma è, se è una caserma militarizzata. Magari c'è un controllo militare, però il portinaio è un civile. Quindi 365 perché il Ministero della Difesa non chiuderà mai, neanche mai. Non chiuderà, stanno sempre in ufficio, è in guerra, ho detto in ufficio, mi sono sbagliato. Stanno sempre al servizio di tutti. Vabbè, mi sembra giusto, uno non è che può dire chiudiamo, sennò il paese viene attaccato nel weekend. Marco, grazie per averci chiamato. Questa è la prima telefonata, il primo racconto di come è stato vissuto questo 1° maggio anche da parte di chi ha dovuto lavorare, come è successo anche a noi, ad altri, insomma. Cristina da Rimini, poi vi chiediamo anche se ci volete raccontare cosa volevate fare da grandi quando eravate piccoli. Cristina, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per avermi richiamato. Sì. Prima di tutto volevo fare una premessa, che Radio 24 è la mia radio preferita. 824, date un'informazione completa su tutto e su tutto. 824 cosa vuol dire? 824 perché prima delle 8 non mi alzo. Ah, va bene. Dalle 8. Perché di solito o si dice 724 che vuol dire 7 giorni su 7, 24 ore su 24, oppure 824 dicevo. Pensavo che aveste delle settimane di 8 giorni ed ero incuriosito. No, 824 perché è l'orario. Volevo raccontare la mia giornata di ieri, la nostra giornata di ieri. Perché c'è ancora gente che crede nel lavoro. Ieri eravamo tutti a lavorare perché stiamo aprendo una piedineria a Rimini, Piada Style, a Lago Riviera, una bellissima piedineria che si aprirà su un fantastico lago dove c'è anche pesca sportiva. E ieri abbiamo tutti lavorato per preparare, verniciare, pulire, però è stata una bellissima giornata. Quindi era una festa nel lavoro e il lavoro nella festa, per cui giovani siamo tre. Beh, una bella giornata, dai. Non siete riusciti però ad inaugurare per il 1° maggio in modo da poter accogliere i turisti, niente. No, non avete fatto in tempo. Entro maggio apriremo, quindi se capiterete dalle parti di Viserba, Rimini, per la stagione, insomma. Momento proloco, certo. Per la stagione di Cristina. Beh, Piada, direi più che proloco. Piada, esatto. Grazie Cristina, in bocca al lupo con la vostra attività, complimenti, ciao. 800 24 00 24, traffico, ci ritroviamo tra un attimo. C'è il traffico? No, ho sbagliato. Non c'è traffico, è una buona notizia. Si può fare, giustamente. Va via tutto liscio così. Volevamo dire che non c'è traffico. Comunque è bello il racconto di Cristina, che ha passato la giornata del 1° maggio a lavorare, ma con uno spirito diverso, diciamo, non uno spirito di fatica, ma uno spirito di condivisione e di creare un'attività. Per preparare il lavoro futuro. Sì. Ci abbiamo il traffico? Eccolo, vai. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lei arrivò che si sentiva stanca, entrò in quel bar come se fosse in fuga. La vita capita che a volte arranca, cerca una strada per dimenticare. Ordinò un tè ma senza averne voglia, e vide lui con quel giubbotto orrendo. Tutto il contrario di ogni suo percorso, c'era qualcosa però in quella posa da orso. Pensò al suo uomo pieno di contegno, alla sua aura, a quel suo grande impegno, che non le aveva detto mai ti amo, col tono giusto che una donna sa. Decise subito in mezzo secondo, quello che da una vita già sapeva, che non esiste proprio niente al mondo paragonabile alla sensazione di essere importante per qualcuno, di avere quell'amore che una si sente dentro. Parliamo di immigrati, di profughi, in particolare di come noi italiani ci prepariamo ad accoglierli nel bene o nel male, tra le difficoltà e invece anche tra le sorprese. Chiamatela pure una goccia nell'oceano se volete, ma a Parma c'è un progetto che dal 1 febbraio è promosso dal Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione, che ha l'obiettivo di coinvolgere 10 rifugiati e altrettante famiglie che li accoglieranno, li ospiteranno e si daranno una mano a vicenda. Ne parliamo per 9 mesi, ne parliamo con una di queste persone che ha deciso di accogliere un rifugiato. Angela Pagani, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e buon sabato, benvenuta. È così, lei diciamo ha scelto di partecipare a questo progetto che si chiama Rifugiati in Famiglia. Com'è che ha preso questa decisione, Angela? Dunque, questa decisione l'ho presa, intanto io faccio parte di un co-housing, quindi ospito in una comunità, in pratica, sì, un rifugiato. Quindi stiamo parlando di un co-housing, spieghiamo per chi magari non conosce anche l'espressione, non sa di cosa si tratti, che cos'è un co-housing? È una condivisione? Sono un gruppo di persone che decidono di vivere insieme, per insomma, diverse motivazioni, e noi abbiamo fatto un percorso insomma, di 2 anni di riflessione su questo tema, e dopodiché abbiamo deciso. Su quale tema? Sul tema del co-housing o sul tema dell'accogliere i rifugiati? Sì, no, sul tema del co-housing. Sì. Allora Angela, raccontaci bene questo co-housing. Voi siete da 2 anni insieme, dove? È una casa normale, un condominio oppure una cascina? Di cosa si tratta? No. Dunque, noi non viviamo insieme da 2 anni. Abbiamo fatto un percorso di riflessione per un paio d'anni su il vivere insieme. Sì. E adesso che è arrivata questa proposta, abbiamo deciso che era il progetto giusto per partire con la nostra convivenza. E dove si svolge questa convivenza? In che tipo di abitazione? A Fidenza. E a Fidenza in una casa, sì, non siamo in campagna, siamo in paese. Quindi una casa insomma, un appartamento normale. E questo esperimento, progetto, chi coinvolge oltre a te e anche al rifugiato o ai rifugiati che hai deciso di ospitare? Ci sono altre persone? Sì, viviamo, siamo io, Silvia, Monica e Sandro. Quindi siete in 4? No, scusa, in 3. Sì, esatto. No, in 4. In 4. E, sì. E chi arriverà? Sapete già chi arriverà? Oltre a voi? No, non sappiamo chi arriverà, no. Mm-hmm. L'abbinamento verrà fatto più avanti. Adesso però qualcuno arriverà, avete insomma. Avete fatto richiesta per avere un rifugiato, è così? Scusi? Avete fatto richiesta per avere un... Ci spieghi questo progetto di accogliere un rifugiato in casa vostra? Allora, non abbiamo fatto richiesta. Il progetto è stato promosso sul territorio, a noi interessava, e quindi ci siamo messi in contatto con l'associazione e abbiamo iniziato l'iter di conoscenza reciproca per per avere appunto, per riuscire ad accogliere un rifugiato. Ecco, ma è curioso, no, questa cosa, perché insomma non è una cosa da tutti, non è che non è scontato che uno dica voglio abitare con un rifugiato, voglio condividere questa esperienza che può portare anche sicuramente conoscenza, positività, unione, l'unione che fa la forza. Ma voi come perché avete deciso di fare questa scelta? Cioè, è proprio un percorso che è indipendente dal tema dei rifugiati, cioè è una voglia di condividere con altre persone, o c'è anche la voglia di conoscere una persona che viene da un'altra parte del mondo, poter dare una mano a chi ha bisogno? Ma penso che siano tutte queste cose insieme, cioè a prescindere da quale sia la condizione, noi come gruppo di co-housing siamo sempre detti che accogliere era uno dei temi, no? Accogliere e lasciarsi interpellare anche dai bisogni del territorio. E poi assolutamente la questione dei rifugiati politici, con quello che sta succedendo poi insomma in questo periodo, ci interpella fortemente. Senti, ma dal punto di vista anche economico, no? La gestione di un, comunque la famiglia, siete in quattro persone, io dico famiglia, ma insomma un co-housing, una famiglia elettiva, una condivisione, ci sarà un'altra persona che può darsi che abbia un lavoro, ma può darsi anche che non ce l'abbia. Pensate di farcela economicamente? Avete un lavoro? State in piedi? Sì, sì, noi abbiamo per fortuna un lavoro, tutti e quattro, però insomma, l'aspetto economico non ci spaventa assolutamente. Il progetto prevede un rimborso spese di 300 euro al mese, quindi questo insomma va è un aiuto. In qualche modo a sostiene anche, sì, esatto. Ma avete poi in qualche modo, vi vengono fatte delle richieste, che cosa dovete diciamo garantire in cambio di questi 300 euro che sono un contributo evidentemente che ha una finalità, che tipo di obblighi ci sono tra di voi, insomma vitto, alloggio, che cosa? Beh sì, vitto, alloggio e questo e basta, altri obblighi non ce ne sono, la cosa che ovviamente a cui punta questo progetto è riuscire ad aiutare queste persone in un periodo di passaggio, no? E quindi di riuscire ad arrivare ad essere maggiormente integrate e autonome e riuscire a sostenerle in questo percorso di ricerca di un proprio progetto personale di vita. Va bene, noi dobbiamo fermarci qua perché abbiamo il giornale radio. Grazie per essere stata grazie con noi mille. Angela Pagani, grazie, in bocca al lupo per il vostro co-housing e per insomma l'ospitalità che darete a questo rifugiato. Il mondo è pieno di sorprese, vedi? Vero. E soprattutto perché sembrava che il collegamento con Fidenza fosse in realtà con New York, perché c'era il tempo d'attesa per comprendere le parole. Sembrava quasi su Skype. Esatto. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo tra poco dopo il GR anche per raccontarci di nuovo il vostro primo maggio, come l'avete vissuto, se avete lavorato quel giorno lì, oppure se ci volete raccontare anche di salamelle, di quello che avete mangiato, di come è andato il vostro lavoro, quello fare che volevate fare da piccoli. Scusami, non avevo capito. Il vostro lavoro che volevate fare da piccoli. A dopo. Ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que estés el mundo. Yeah. Buongiorno e buon sabato a tutti. Questa è Si può fare. Questa che avete appena sentito è El mismo sol di Alvaro Soler, che è il Si può fare in musica della nostra ascoltatrice Federica Varnier, perché lancia il messaggio che siamo tutti uguali sotto lo stesso sole. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, quindi se avete delle canzoni che ci volete segnalare perché per voi rappresentano il Si può fare, oppure se siete dei compositori o dei musicisti e avete scritto delle canzoni ad hoc o delle altre canzoni che comunque c'entrano con il Si può fare, segnalatecele dove e come sui nostri social, account social, per esempio Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account Twitter chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Fatelo subito, andate a postare il vostro Si può fare in musica. Tra poco parleremo di xylella, che cos'è questa malattia che sta colpendo gli ulivi pugliesi e come combatterla in modo naturale. Tra l'altro, il tema dell'Expo è nutrire il pianeta, quindi c'è un forte collegamento. A proposito di Expo, siamo partiti questa mattina raccontando la storia dei lavoratori che hanno costruito il padiglione del Nepal, facendo una corsa contro il tempo, visto che i loro colleghi erano dovuti rientrare nel paese a causa del terremoto. 800 24 00 24, se volete raccontarci anche come avete vissuto o letto, insomma, la giornata di ordinaria follia ieri di Milano dopo l'inaugurazione dell'Expo con le devastazioni, potete farlo, chiamateci. Poi c'è il gioco dove vi chiediamo di raccontarci il vostro primo maggio e soprattutto di raccontarci che cosa volevate fare da piccoli, che cosa fate oggi che invece siete più grandi. Esatto. E poi volevo precisare una cosa, che è stato visto... un po' oscurato da tutta questa giornata, noi invece vogliamo così anche è stato molto oscurata da questi ragazzotti o deficienti. Ci terrei a precisare una cosa, siccome arrivano molti messaggi dicendo questi criminali, ragazzotti, io prima ho detto anche idioti. Io in realtà non sono tanto d'accordo nel definirli semplicemente degli idioti, perché penso che siano, è un movimento internazionale che andrebbe compreso perché forse andrebbe capito come mai ci sono delle persone che pensano che per cambiare il mondo vadano colpiti i segni del capitalismo, perché è questo che fanno sostanzialmente. Quindi definirli semplicemente idioti, un po' come per dimenticarli ed etichettarli, mi sembra pericoloso, perché comunque sono gli stessi che a Francoforte a marzo hanno messo a ferro e fuoco Francoforte, e quindi è un fenomeno da studiare, da comprendere, non semplicemente da dire va bene, sono quattro deficienti che spaccano delle macchine. Devo dire anche che il premio di oggi, sempre offerto dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, è un bel cesto di prodotti tradizionali che vengono dal comune di Mezzago, Comune Virtuoso, prodotti a base di asparago rosa, quindi una bella occasione per partecipare, chiamare e vincere questo premio, insomma, con il racconto più divertente, più interessante dal nostro punto di vista su questo vostro primo maggio, come l'avete vissuto, se magari siete dovuti andare a lavorare anziché poter stare lì con gli amici a festeggiare, a fare i cavoli vostri. 800 24 00 24, abbiamo gli ascoltatori in linea e cominciamo con Romano che ci chiama da Sondrio. Sì, della provincia. Buongiorno Romano. Buongiorno. No, ieri io e mio figlio spaccavamo legna, tutto normale perché in provincia di Sondrio si spacca la legna tutto l'anno. Come passatempo? Non come passatempo, perché sai, il gasolio costa, quindi da ardere nel camino. Da ardere nel camino d'inverno. Lei ha uno di quei riscaldamenti dove si brucia la legna? No, io ho due sopra in casa e non vado a gasolio perché il gasolio costa, spacco legna. E mio figlio di 16 anni mi aiuta. Ieri ascoltavamo Radio 24 in diretta con Barisoni. Sì. E niente, c'erano i casini a Milano. E quindi mio figlio mi ha fatto solo. Mi diceva solo: ma sti qua, se gli ammucchiano un mucchio di legna, gli fanno spaccare legna al posto di spaccare vetrine. Sicuramente. La sera sono stanchi. Sarebbe un'ottima pena riparativa alternativa, no? No, ma mi sembra... oltre a carcere, metterli a spaccare un po' di legna. Ma così mi sembra un'ottima proposta, perché giustamente è anche un fatto di sfogarsi, quindi si stancherebbero e poi dopo uno a un certo punto ha le braccia che gli fanno male. Ma le volevo chiedere una cosa: ma come mai raccoglie già adesso la legna? Nel senso che si sta preparando per il prossimo inverno? Esatto, noi la facciamo, la tagliamo un anno prima, la lasciamo seccare. Tagliata e così poi brucia meglio per ardere, facendo dei come si può dire, dei piccoli rami, dei fa la misura per mettere in stufa, insomma. Ma dove la raccoglie questa legna, per curiosità? Cioè, va nei boschi, il comune qui, che io sono, parlo della Val di Dentro, sì. Il comune qua danno dei lotti e si può andare, è legna, sono piante che si, d'inverno si radicano. Ma lei va, scusi, danno dei lotti in che senso? Cioè, lei ha una zona, lei in quanto romano, allora, ha una zona particolare dove può andare, oppure tutti i cittadini di Sondrio? Il comune ti indica il posto, sì. Dove ci sono degli alberi da tagliare, o che sono vecchi, o per sono radicati, ti segna le piante, ti segna un lotto di 15 quintali o quello che è, e tu vai con la tua motosega, ti tagli la legna. E poi alla fine e risparmi sul gasolio e, diciamo, vai però a toccare solo le piante che il comune con qualche... Devo dire che tra formica e cicala lei è veramente formica, perché addirittura il 1° maggio, giorno di festa, giorno dei lavoratori, lei decide di lavorare per prepararsi a un inverno caldo che arriverà intorno a ottobre. Questo vince su tutti, cioè, adesso vediamo, però in lei più, si con la candida per il Black Block, direi che è un ottimo candidato per più il nostro premio. Grazie Romano, buona giornata. Andiamo con Valerio, che ci chiama dalla provincia di Latina. Buongiorno. Buongiorno. Valerio. Buongiorno. Avevo messo 67 anni, quindi penso di avere vissuto un po' di esperienze sul territorio mio e anche a livello nazionale, perché per un periodo di anni ho fatto il propagandista di cultura. Il propagandista? Che cosa, scusi, non abbiamo capito. Che cos'è che ha fatto il propagandista di cultura. Di cultura. Venditore di libri. Ah, ok. Cioè, così abbiamo capito. Scusi. Ho lavorato in Rizzoli negli anni di piombo. Perfetto. Allora voglio fare un po' una sintesi di quello che è accaduto ieri, perché ripetersi di tanti altri fatti che sono più o meno simili. Non voglio scendere nei dettagli, perché i fatti si commentano da solo. Sono perfettamente d'accordo che questi signori hanno bisogno di sfogarsi. Si chiama ergoterapia, perché quando uno è stanco si sfoga in quel modo. Però c'è, secondo il mio modesto parere, c'è qualcuno dietro che li pilota. E servono un po' ad addestrare quelli dall'altra parte. Se io so che la mia casa potrebbe prendere fuoco e si sapeva che poteva nascere una cosa del genere, si potevano preparare in una maniera diversa. Ci sono dei mezzi tecnologici, i idranti a forte pressione. Ci sono i Tesla, come si chiamano, le pistole elettriche. Sì, però, si possono sì, non sono legali in Italia, il taser non è legale in Italia. E poi il vero problema è che ieri questi che erano camuffati in mezzo alla manifestazione, c'erano 30.000 persone in piazza, tra cui donne, bambini, che no, forse non cosa. Bisogna abbatterli, no, con il taser. Io non sono d'accordo, quindi... invece, perché io non ho capito una cosa. Com'è stato possibile che sono stati fermati dei francesi, un tedesco mi pare, e delle altre persone straniere, non hanno potuti espellere perché il consolato francese non è stato nel mandare i documenti. Allora tutta la gente con delle mazze, con delle molotov, eccetera eccetera, ma non li puoi espellere, sono comunitari, ci prego, si accomodi. Questo è un po' incomprensibile, devo dire, dal punto di vista della gestione dei rapporti della giustizia tra Italia e Francia. Dopodiché poi Valerio, poi volevo dire un'altra cosa e mi fermo. Sì. Io ho avuto il piacere di conoscere Procaccini Giuseppe quando era prefetto a Latina, ha fatto una carriera rapida da civile. Quindi ciò vuol dire che non prendeva sì ordine, ma usava anche il cervello. È arrivato al vice capo della polizia, poteva fare benissimo il capo della polizia, anche il ministro degli interni. È stato fatto fuori facendolo, come dire, è stato usato come capro espiatore per quella gazzaga che è stata cacciata via, nonostante... Non conosciamo la vicenda di Procaccini, grazie comunque per avercela ricordata. Magari a qualcuno ha, come dire, solleticato nella memoria qualche cosa che conosce. Noi studiare. No, zero. Facciamo il traffico, sì, poi semmai qualche altro ascoltatore dopo. Poi tra poco parliamo di Xylella e andiamo in Salento. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Yeah! Questa è casa mia, terra mia, lui Salento non se tocca. Questa è casa mia, terra mia, e lassù sempre aperta la porta. Questa è casa mia, terra mia. Lui sale in tu non si tocca. Questa è casa mia, terra mia. E lassù sempre aperta la porta. Io mi ricordo c'è Beggia, che era sta terra quando c'è ti sei curava di noi. C'era meno denaro e pure meno miseria. Tu salento calci io non ti chiudi. Io mi ricordo c'è Beggia, che era sta terra quando lì pagioni eravamo noi. Ma pure sta situazione in fondo te ne è una fine ed è una festa che si distinguerà. Nati in una terra tu lo sole, scarpa le pete come lo cuore. Siamo noi che ti pronti a lottare, contro sciacquai porta solo dolore. Sappiamo che non c'è te ne valore, ma non è qui giocare stati a dare. Per questo venimo a cantare, la terra noscia non sa toccare. Maledetti! Silella, così il volontariato del Salento sta fermando la strage degli ulivi. Avete sentito parlare di questa malattia, di questo batterio, la xylella, che starebbe colpendo gli ulivi del Salento, che però di fatto stanno morendo. C'è una malattia, c'è qualche cosa che non va. Il governo in settimana ha stanziato 11 milioni di euro, il ministro Martina, per questa emergenza che preoccupa anche l'Europa, perché potrebbe contagiare anche altre piante. Quando ho letto questo titolo, Xylella, il volontariato del Salento sta fermando la strage degli ulivi, ho detto cavolo, davvero? Ne parliamo con Luigi Russo, buongiorno. Buongiorno carissimi, buongiorno. Giornalista Luigi e presidente del Centro Servizi del Volontariato del Salento, uno degli animatori di questo movimento di cittadini che si sta interessando intanto a cercare di capire che cosa sta accadendo a questi ulivi del Salento. Noi abbiamo letto continuamente che erano malati di questa xylella, adesso scopriamo che forse non è così. Non è così, assolutamente, abbiamo capito tutto, stiamo in questi mesi, in questi anni che abbiamo osservato tutti i movimenti e per questo abbiamo fatto nascere un grande movimento di idee soprattutto e di mobilitazione. In realtà qui c'è un problema che si chiama disseccamento rapido degli ulivi, che poi colpisce anche altre piante, ma abbiamo anche tante altre piante che hanno problematiche in tutta Europa, non soltanto nel Salento, Un cambiamento climatico, i funghi, il clima che si è surriscaldato, i funghi tracheomicotici, come dicevo, l'impoverimento del suolo provocato dall'uso importantissimo di erbicidi e di pesticidi hanno trasformato il sistema vegetale e quindi c'è un nuovo adattamento in atto. Allora, per quanto riguarda la xylella, facciamo subito chiarezza, perché se dobbiamo aiutare anche gli ascoltatori a capire, dobbiamo uscire fuori da queste paranoie o da queste cose. La xylella è un batterio che colpisce spesso delle piante, per esempio. La xylella è un batterio che esiste negli Stati Uniti da 130 anni, sì. Da 130 anni che si fanno un così, ma non sono mai riusciti a combatterlo e sono arrivati alla conclusione che non si può eradicare, punto. Dopodiché, cosa bisogna fare? Bisogna distruggere tutto il patrimonio vegetale di un territorio quando manifesta problematiche di salute. È come dire, siamo in una zona e c'è una persona che manifesta una malattia, che facciamo? Eradichiamo, togliamo di mezzo il problema? Perché mi faccia dire una cosa, Russo, poi la faccio proseguire. Diciamo la soluzione che è stata immaginata dalle autorità, quello che chiede l'Europa, è che sostanzialmente questi alberi vengano tagliati, eradicati addirittura, perché si ha paura proprio del contagio. Voi dite sono alberi secolari, non è certo che ci sia questa malattia e tra l'altro non si può eradicare, quindi troviamo un altro sistema per risolvere la questione. Ma il fatto straordinario è che voi dite di averlo in qualche modo individuato il sistema. Qual è il sistema alternativo? Adesso proprio un secondo per dire che una ricerca, l'unica ricerca americana che ha studiato la xylella sugli alberi di ulivo ha dimostrato che la xylella non provoca il disseccamento degli alberi, quindi non è questo il problema. Quindi di che studio si tratta? Ce lo ripete? Il studio del professor Krugner ed altri, Università della California, ha analizzato per 8 anni gli alberi di ulivo e hanno inoculato meccanicamente il batterio della xylella multiplex in questi alberi e dopo 24 settimane il batterio era bello che morto, cioè l'albero ha una capacità straordinaria, l'albero di ulivo, di difendersi da questi batteri, ma poi sono milioni i batteri, capito? Quindi noi ci stiamo fossilizzando su questo batterio perché è particolarmente virulento, ma si è dimostrato che è virulento sulle viti e sugli aranci. Perché abbattere gli alberi di ulivo e non curarli? Questa è la domanda che ci facciamo. E allora, siccome qualcuno ha creduto e sta credendo che non è il batterio in sé che porta al disseccamento degli alberi di ulivo, lasciamo perdere le viti, che è un'altra questione, eh? Sì. Ma siccome non è ciò che colpisce l'albero d'ulivo, allora hanno cominciato Ivano Gioffreda, gli spazi popolari, ma tanti altri, diciamo che ormai sono migliaia di contadini salentini, sì, che hanno applicato le vecchie pratiche in caso di problematiche che riguardano i funghi, perché questa storia qui del disseccamento si è avuto anche nel 1870 e l'hanno combattuto con zolfo, con solfato di rame e con calce e col ferro, e quindi rinforzando l'albero, dando vigore all'albero, tra l'altro mettendo nel terreno anche ciò che è necessario mettere nel terreno, soprattutto sostanza organica che ormai non c'è più per l'uso sconsiderato di pesticidi. Ma quindi ci sono degli agricoltori, insomma dei coltivatori, che sono riusciti con zolfo, come ci diceva lei, ferro, calcio. Si chiama poltiglia bordolese questa cosa qui, che si irrora, si aiuta l'albero, gli dà, rinforza l'albero e combatte i funghi. Gli alberi si sono ripresi. Gli alberi si sono ripresi. Quindi voi, diciamo, suggerite di fare così prima di eradicare, insomma, eventualmente le piante. Ma non si devono proprio eradicare, proprio non ha senso eradicarlo, perché tra l'altro non si eradica neanche il batterio, è una follia completa, anche perché poi questo ci fa pensare. Ma questo è quello che chiede l'Europa? O... Ma l'Europa non chiede, l'Europa hanno dato delle informazioni sbagliate. Sì. Qui c'è veramente c'è una gestione proprio rocambolesca, se per non dire proprio carlona, o anche di come spiegarla, cioè ci sono degli scienziati che, siccome c'è lo stile mondiale, quello, c'è un allarme, c'è questo e c'è quell'altro, ci inventiamo un allarme anche qui come Ebola, ma non c'entra nulla questo. Anzi, le misure che loro prevedono, creare un corridoio fitosanitario, ma sono robe da virosi, non da batteriosi. L'albero deve imparare a convivere col batterio. Questo lo dice l'Università della Basilicata, che da 14 anni fa sperimentazione su questo campo, il professor Christos Xyloiannis, sì, e gli hanno impedito però di entrare nello staff che sta curando questa cosa. Ora, capisco, ma così, sì, ma posso chiedere una cosa, nel senso che io forse sono stupido, ma come mai invece c'è qualcuno che dice bisogna abbattere? Cioè, è qualcuno che odia gli olivi o sono quelli che hanno i mandarini che pensano che questo, che la xylella attacchi gli aranceti? Cioè, come mai c'è qualcuno, sì, che invece decide o vorrebbe che venissero abbattuti questi alberi? Per un motivo molto semplice, perché in ambito internazionale scientifico, quando ci sono batteri inseriti nell'elenco EPO1 in Europa, sì, vanno trattati in questo modo, ma secondo noi il batterio della xylella non si può inserire nell'elenco EPO1 dell'Europa, perché è un batterio che ormai è diffuso in tutta l'Europa, cioè sono stati trovati 13 focolai in tutta Europa e si parla soltanto del Salento, c'è nella Corsica, a Parigi, a Nizza, in Olanda. E quindi a questo punto di che cosa dobbiamo isolare o difendere? Perché il fatto di abbattere serve per isolare, per fermare. Certo. Quindi lei dice, siccome è già diffusa, non c'è niente da isolare, ma bisogna insegnare all'ulivo a convivere con la xylella. Ma veramente lo dicono gli universitari, esclusi quelli di Bari, che dello IAM di Bari, che dicono abbattere e abbattere. Insomma, c'è ma il non capisco la motivazione. Ora, è difficile. Mi scusi, no. Russo, mi faccia dire una cosa. Sì. È difficile qua prendere, almeno da parte nostra, una posizione, perché bisognerebbe essere dei tecnici della materia. Ci sono di mezzo questioni scientifiche, di carattere scientifico, naturalmente. Beh, quello ma che anche mi di affari, però. Sì, è anche di affari, dice lei. Sicuramente. Quello che ci sembrava interessante di dire è che di fronte a un dato oggettivo, cioè gli ulivi che si ammalano, di fronte a delle prese di posizione delle nostre autorità che sono state da parte dell'Europa abbattiamo, da parte del ministro Martina vediamo, sono state fatte le task force, ma nessuno però è riuscito a contrastare questa cosa, c'è un movimento spontaneo di cittadini e coltivatori che propone una soluzione meno drastica, forse più naturale, anche se prevede l'impiego di minerali come il ferro eccetera eccetera, che porta a una soluzione. Questo secondo me è interessante. Dopodiché le chiedo, il ministro Martina in tutto questo in settimana ha stanziato 11 milioni di euro per cosa? Per fare cosa? Ecco, e questa è la questione. Allora, qui c'è un aspetto scientifico, e tra l'altro vorrei dire a tutti gli ascoltatori che noi non è che siamo dei santoni, noi ascoltiamo gli scienziati. Sì. Cioè, il mondo scientifico è spaccato in due rispetto a queste cose. Allora, il professor Christos Xyloiannis è tutta una scia di gli scienziati dicono le batteriosi non si combattono con l'eradicazione, l'hanno fatto col kiwi e il problema non l'hanno risolto perché il batterio è rimasto e quindi bisogna trovare soluzioni alternative, ma lo dicono gli scienziati, noi ascoltiamo gli scienziati. Poi le dicevo, la ricerca americana ha dimostrato che non si combatte, non c'è causa effetto, sì. Invece altri dicono no, si deve fare così perché questo è l'unico modo per fermarlo. Allora il ministro che sta in mezzo, oppure la regione Puglia, che cosa deve fare? Deve ascoltare le autorità che sono state incaricate di fare questo, a meno che non scopriremo domani che non erano all'altezza di fare questo. Ma non è la prima volta in Italia che capita che scienziati non siano magari all'altezza di un'emergenza. È come andare ma anche negli Stati Uniti succede questo, non è una cosa tipica italiana. Però noi non possiamo aspettare che loro buttino a terra tutti gli alberi di ulivo, 1 milione, quanto ne volevano buttare prima, per scoprire che magari hanno detto delle giusto, cavolate. Certo. Allora, se ci rendiamo conto che ci sono dei dubbi, vediamo un attimo. Anche perché, di fronte al fatto che gli alberi stanno bene quando vengono trattati in questo modo, e io personalmente ho portato il commissario governativo a vederli, e li ha constatati e mi ha detto, ma sì, stanno bene, mi sembra strano, ma stanno bene. E allora gli ho chiesto, ma scusi, allora, dopodiché, cosa dobbiamo fare? E lui ha detto, ma chi mi dice che fra un anno staranno ancora bene? Io ho dovuto dirgli, scherzando, ma scusi, ma chi mi dice che l'anno prossimo lei è vivo, che sono vivo anch'io? Certo. E lui si è spaventato, immagino. Ma quindi questi soldi del ministro servono per continuare la ricerca? Cioè per approfondire? Per pagare i danni a chi ha subito i danni, eventualmente daranno un centinaio di euro, forse ad albero secolare, ma secondo me è un biocidio incredibile questo, oppure per cioè lei dice siccome vengono dati dei soldi per ogni albero abbattuto, potrebbe essere un'istigazione ad abbattere degli alberi secolari. Già lo stanno facendo. Io proprio l'altro ieri ho denunciato. Ma voi avete fatto anche dei ricorsi al TAR contro che cosa? No, abbiamo fatto tutto ciò che la legge ci permette, perché noi siamo persone molto corrette e stanno nella legalità. Prima abbiamo fatto esposti alla Procura della Repubblica, che ha aperto inchieste sulle quali non posso dire, perché ovviamente si stanno muovendo, vanno in diverse ipotesi, finanziamenti di multinazionali, l'altra ipotesi può essere quella lì della costruzione dell'edilizia in quelle zone colpite da questo batterio e quindi con l'eradicazione degli alberi, fondi neri per la ricerca, ma c'è una serie di cose che la Procura sta indagando. È andata a fare visita presso lo IAM di Bari, e questo istituto scientifico, non gli hanno permesso di entrare alla procura, ha dovuto fare una rogatoria internazionale per poter entrare. Ci sono tutte cose un po' strane, questo è l'aspetto penale. Poi c'è un aspetto invece che è quello di tipo amministrativo, perché abbiamo fatto 4 ricorsi al TAR, le hanno fatto le aziende del biologico, le hanno fatte perché le aziende subiscono dei danni incredibili, cioè uno, quando tu devi buttare i pesticidi o i fitofarmaci per ammazzare la mosca con la sputacchina, sarebbe questo l'insetto da uccidere fondamentalmente, e loro non possono più classificarsi come biologiche, quindi un danno incredibile. Così anche i vivaisti, lo sapete, i vivaisti devono troncare tutte le alberi, gli alberi di ulivo, gli alberi di rosmarino, tutto deve essere distrutto. E poi le associazioni di volontariato che hanno fatto il ricorso al TAR per problemi di salute pubblica, perché l'uso di fitofarmaci aumenta i tumori e sarà fatto un uso massiccio secondo questo piano, e poi anche i comuni adesso hanno fatto il ricorso. Allora, e anche addirittura il proprietario di un terreno di Oria, che dovevano abbattere 300 alberi, purtroppo hanno trovato davanti un professore universitario che insegna diritto costituzionale e hanno fermato anche lì. Cioè il piano in sé non sta in piedi, è stato fatto in una maniera molto superficiale e pensando che la soluzione sia quella dell'eradicazione. Invece l'eradicazione non serve a nulla. Ripeto, noi abbiamo chiesto ripetutamente, questo è un dato che dico a voi per la prima volta, sì, di fare ricerca alternativa rispetto a quella che loro vogliono fare. C'è una ricerca che è quella che sta facendo l'Università di Bari, lo IAM, è l'unica ricerca possibile. Loro hanno il predominio, nessuno può entrare qui nel Salento a fare neppure i prelievi senza la loro autorizzazione. Abbiamo chiesto di fare una ricerca alternativa, ce l'hanno legata e hanno detto che dobbiamo andare al Ministero a chiedere le autorizzazioni, ma con universitari. Russo, lei è un fiume in piena, bisogna mettere una diga alla fine, perché sennò non si ferma più. No, capisco che sia una vicenda che... Sono soltanto informazioni quelle che sì, purtroppo sono informazioni, è anche difficile, come dire, prenderle con le pinze, perché tutto questo naturalmente richiede una conoscenza che io personalmente non ho. Però mi sembrava interessante lei, con quante associazioni, quante, da chi è costituito questo movimento, diciamo, spontaneo che sta nascendo, che ha fatto ricorsi alla giustizia, articoli sui giornali, sta cercando di trattare le piante in modo diverso? Da chi? Ci sono 300 associazioni che sono collegate con noi, sì. Ma ne stanno nascendo moltissime, perché ormai si comprende che c'è un assalto al territorio. Guardate, amici cari, la provincia di Lecce, il Salento, è semplicemente un laboratorio che poi trasformerà anche altre parti del nostro paese. Arriverà qualcuno dall'alto, ti inventa una emergenza e tu trasformi il territorio. Purtroppo in questo anno ho dovuto leggere molte cose e so bene che essere un fiume può anche non essere utile per comunicare bene, però... No. A noi va benissimo, siamo contenti che abbia letto molte cose. Assolutamente. Molte cose che si stanno muovendo, e quindi questo secondo me è un laboratorio per cambiare poi la faccia anche dell'Italia. Luigi Russo, io la ringrazio, anzi ti ringrazio, sei un collega, sei un giornalista, quindi possiamo darci il tu, ti ringrazio anche per il lavoro che fai, nel senso di sollevare delle questioni, cercare di capire di più, di fare più ricerca, di essere sicuri di come trattare questa malattia comunque che sta colpendo gli ulivi del Salento, un patrimonio sicuramente importantissimo, quindi è giusto che si approfondisca e che ci sia questo interesse, è bello, da parte dei cittadini. Grazie intanto per essere stato con noi. Grazie mille, mi buon sa sabato. Che ci risentiremo, perché non è una cosa che si risolverà tanto facilmente. Probabilmente c'è anche, come dire, il giustificato tentativo da parte di chi è proprietario di questi ulivi di non doverli abbattere per forza, ma di salvare il salvabile. Sì, c'è anche chi dice invece che in realtà vogliono abbatterli per poi rendere edificabili i terreni e venderli per gli speculatori, quindi è una questione da capire, e risentiremo molto volentieri. Dobbiamo il fare... tuo collega, perché io non sono un giornalista, infatti gli davo del lei. Dobbiamo fare la pausa, Peter Bescapè, o possiamo fare l'ascoltatore? Facciamo la pubblicità, poi sentiamo qualche ascoltatore. Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buon sabato. Abbiamo Hermes che ci chiama da Ancona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Su cosa voleva intervenire Hermes? Volevo intervenire a proposito della xylella fastidiosa. Sì. Ho sentito il ragionamento di Luigi Russo, se non vado errato. Esatto. Sì. Che condivido perfettamente, guardi, perfettamente. Io sono un tecnico. Di cosa sono si occupa? Sono un tecnico... Mi occupo di agricoltura, sì. Sono un perito agrario. Perfetto. E ho avuto modo di controllare ancora dei batteri su alcune colture erbacee, sì. Con dei prodotti ammessi dalla legge e dalla farmacopea europea, e avere dei successi. Naturalmente la xylella fastidiosa, come è già stato detto, esiste dal 1800, quindi attacca un po' tantissime piante. E in questo caso può avere attaccato l'olivo, l'ha sempre attaccato, però l'olivo si autodifendeva. Io sono d'accordo anche sugli interventi che hanno fatto per controllare, per prevenire la xylella, sì. Con rame e con la poltiglia bordolese, eccetera. Ma oggi ci sono dei prodotti anche migliori, più raffinati, che sono messi anche nel caso che uno faccia un discorso di agricoltura biologica. E questo le posso anche dire, dico solo le molecole. Uno è il solfato di rame tribasico, che è perfetto per controllare la batteriosi, e deve essere aggiunto, l'hanno già detto prima, quindi lo ripeto, a un chelato di ferro con le dosi adeguate. Però sulle molecole sabato mattina diventa veramente difficile, mi scusi. Poi ci danno degli stregoni, non posso dire i nomi commerciali, potrei anche dirli. No, dica le molecole, che è più divertente. Io ho detto un rame tribasico. Sì, sì, sì. È semplicemente che mi sentivo di nuovo a scuola sabato mattina, interrogato in chimica, e ho avuto un rigurgito, le chiedo scusa. Ma si figuri, guardi, allora io le dico le molecole, rame tribasico con calato di ferro ripetuto a distanza di 20 giorni. Perfetto. Per almeno 3 volte, in epoche non in fioritura, prefioritura, postfioritura. Ma scusi Hermes, a parte questo, diciamo, le vorrei chiedere, lei è d'accordo con Luigi anche sul fatto che ci possono essere dietro degli interessi economici di qualche tipo multinazionale, guardi, oppure costruttori che vogliono buttare giù queste piante? Cosa vuole? vuole che le dica, io questo non lo so, lo posso pensare, un'ipotesi, ma io questo non lo so. Va bene. So solo su questo ci sono le inchieste, Hermes, grazie, perché se andiamo di nuovo sulle molecole poi non ne usciamo più. Comunque è interessante tutto ciò. Mi è venuta voglia di piantare un ulivo sul mio balcone, perché adesso so che ogni 20 giorni devo... Come ce l'hai? Che ce l'ho? È un ulivetto piccolo. Perché però sei proprio un toscano vero. C'ho un ulivetto piccolo sul mio balcone, che è un balcone di 1 metro quadrato. Un bonsai, quindi? No, sì, praticamente lo devo potare, perché se dovesse crescere... Te lo verremo a estirpare. Spero che non abbia la xylella. Spero che tu non mi stia attaccando la xylella, soprattutto. Credo di no. Oddio, sento la xylella fastidiosa. Mi viene da grattarmi. C'ho la xylella fastidiosa. Adesso è il momento di Rossano Ercolini, from Capannori. Parliamo di sacchetti di plastica. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Ogni sabato, quasi tutti i sabati mattina, con Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italia, il movimento Zero Rifiuti, premio Nobel, diciamo così, per l'ambiente 2013, ricevuto dalle mani direttamente di Obama, niente proprio di meno che, affrontiamo il tema dove si buttano i rifiuti, la raccolta differenziata. Come... L'hashtag è dove lo butto. Esatto. E questa settimana, ciao Rossano. Buongiorno. Siamo felici che sei di nuovo con noi. Abbiamo la notizia: l'Europa approva la direttiva definitiva sui sacchetti di plastica, insomma, invitando gli stati membri a ridurre il consumo di questi terribili nemici dell'ambiente. Cambia qualcosa? Per una volta forse l'Italia, se ho capito bene, siamo già un po' più avanti degli altri, o no? Sì, io penso, forse questa volta, anzi sicuramente questa volta, noi siamo più avanti, cioè è l'Europa che copia l'Italia, perché noi dal 2011 abbiamo imboccato la strada della messa al bando. Quindi sottolineiamola questa cosa. È una cosa, come sempre io dico, l'Italia è un paese bellissimo, montagne russe, trovi il peggio ma trovi anche il meglio. Vai su e vai giù, insomma. In questo caso siamo andati all'eccellenza e probabilmente è un paese pilota per gli altri paesi. Perché, ma stiamo parlando dei sacchetti di plastica, quelli che al supermercato ci danno, che sono leggerissimi, che in realtà sono biodegradabili, giusto? Sì, quelli da 50 micron mi sembra, sì. Quelli devono essere superati. Ho visto che nella meccanica, nel dispositivo della decisione europea, devono sempre più ridursi, invece in Italia e non è successo nulla, cioè qualcuno minacciava sfracelli perché... Qualche bottiglia di latte rotta è successa, perché va detto che questi sacchetti di plastica sono a volte veramente sottilissimi, però, spaccano con una confezione di pesto. No, verissimo, però si può, voglio dire, io non sono, ho sempre detto che la bioplastica è il male minore, non sono un sostenitore, giusto, diciamo un fan della bioplastica. Dico che si può andare con la borsa di juta, dico che ormai si stanno diffondendo modelli per cui, non dico con la vecchia sporta, giusto. Si va a fare la spesa con la solita, col solito contenitore comodo, è chiaro che poi se qualcuno è un pochino come me, a volte succede anche a me, un pochino più diciamo distratto, disorganizzato. Ecco, ma perché infatti secondo te, Rossano, non è... perché in teoria è una cosa facilissima, no? Ma tu esci con... Io non esco mai col sacchetto di plastica, va a finire che prendo quello del supermercato molto leggero. È per una questione di disorganizzazione. Magari una sera hai, che so, qualcuno da invitare, allora all'ultimo minuto ti accorgi che non hai comprato qualcosa e ahimè l'offerta è più vicina al supermercato, allora magari non vai al negozietto dove si vende tutto sfuso, che magari abitualmente è quello diciamo di riferimento. Sì. Quindi a Milano quello è quello che costa di più di solito, quello che ti vende tutto sfuso. Ma io in realtà adoro il trolley, mi sembra una cosa un po' troppo d'anziano, e quindi tutti i Natali non riesco a farmelo regalare. Il fatto di andare a fare la spesa con il trolley, quello a scacchi. Tu lo usi il trolley invece, Rossano? No, io non lo uso, perché anche a me dà questa impressione. Già sono un nomade, perché stamani vi telefono da Catania, quindi giro l'Italia. Se poi che si spenda di più al negozio filiera corta, questo è discutibile, perché se non usiamo imballaggio risparmiamo l'imballaggio, che invece ci fanno pagare. Poi è chiaro, andiamo all'hard discount, però anche la qualità poi a... Però scusami, a parte questo tema del costa più costa meno, voglio tornare al sacchetto, sì, perché sì. A me mi intriga la questione del sacchetto. Perché i supermercati, per esempio, non potrebbero fare, adesso non voglio fare pubblicità su questo tema all'IKEA, però l'ho già detto, dove tu trovi o sacchetti di plastica rigidi, no, che non sono usa e getta, quindi sei costretto a riutilizzarli, o sacchetti di carta, non trovi mai nessun tipo di sacchetto di plastica. Invece i supermercati ancora fanno, cioè se io entrassi e non li trovassi più, è chiaro che non li utilizzo. Ma costano però quei sacchetti dell'IKEA. Sì, no, ma comunque al supermercato il sacchetto biodegradabile a norma, sì. Perché è stato un problema per l'Italia. All'inizio sì. C'erano vari sistemi, alcuni sistemi si rompevano, si micronizzavano, ma non erano biodegradabili. Ora possiamo dire che questo sacchetto dove lo butto, completamente lo metto biodegradabile. Ecco, la confusione è che le massaie, ma anche le persone, magari anche gli ambientalisti, a volte si confondono e lo mettono nella plastica, nel contenitore della raccolta differenziata. Ma come plastica. Si capisce quando un sacchetto è che si può buttare nell'umido e quando no? Allora, i sacchetti che sono in commercio in Italia, a parte qualche furbetto che ha le scorte da esaurire, ma su questo credo che nemmeno le scorte siano più reintroducibili nel sistema dei rifiuti, il sacchetto una volta usato può andare per la raccolta dell'organico. Quindi lo usiamo direttamente per quello. Tutti assolutamente. E quindi si risparmia anche sull'acquisto eventualmente del sacchetto per l'organico, vedi? Giusto. Sì, perché purtroppo alcuni comuni che fanno il porta a porta non danno il sacchetto in Mater B come succede a Milano, come succede anche a Capannori, ma devi fare il fai da te con i sacchetti biodegradabili, quindi gli dai una doppia vita, è un modo di riciclare ai fini del compostaggio. Comunque non va mischiato con i sacchetti della plastica di origine petrolifera, assolutamente. E comunque per una volta, insomma, noi italiani possiamo andare a testa alta in Europa e dire siamo stati degli anticipatori su questo. Bisogna dare onore a un parlamentare di Legambiente, Ferrante, che ha fatto una battaglia, ovviamente sostenuto anche dai movimenti Rifiuti Zero, dai movimenti più avvertiti, è riuscito a tener duro e dal 2011 l'Italia doveva pagare una procedura di infrazione su questa questione, paradossalmente. Adesso è stata sospesa e quindi una volta tanto l'Italia ci è uscita a testa alta. Fantastico! Grazie Rossano. È sempre un bel momento. Buon proseguimento. Ciao. Ciao, un abbraccio, mille. Un grande abbraccio. Salutaci Catania. From Capannori, ma era Catania. 800 24 00 24. Traffico, torniamo tra un attimo. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Che ora son, mi corazon. Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Que voy a hacer, je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Expo diventa anche una vetrina per le nuove professioni, come per esempio narratore del gusto, un corso di alta formazione che di narratore del gusto e della cultura, che nascerà all'Università di Urbino e che verrà presentato proprio in questi mesi a Expo. Per noi è perfetto perché ci siamo sempre occupati di lavori nel futuro, quindi avevamo anche una rubrica sui lavori del futuro, e questo è il filone di quella rubrica. Un lavoro del futuro. Rodolfo Coccioni, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Buongiorno. Sono Coccioni, che è direttore proprio di questo corso di alta formazione di narratore del gusto. Viene da sorridere, ma è una cosa seria. Molto seria, molto seria. Tenendo conto che è un modello, un sogno forse nuovo per su cui puntare in questo tempo di crisi. Perché come sapete tutti, l'agroalimentare e l'enogastronomico è l'unico settore che sembra vada bene, un settore che sicuramente ha un grande futuro. Speriamo, sì, sicuramente ha anche un bel presente, i numeri sono buoni, poi sappiamo anche che non c'è sufficiente ricambio, per esempio, tra i coltivatori, tra chi abbandona le terre per questioni anagrafiche o di storia personale, eccetera, e chi invece subentra. E anche questo è un problema che prima o poi andrà affrontato. Però lei invece col suo corso affronta un altro aspetto della vicenda, cioè quello di chi è in grado proprio, come dire, di conoscere, di tradurre i sapori, i distretti del territorio e di raccontarli, per esempio, anche forse soprattutto all'estero, a chi poi è interessato a venirli a scoprire, ad acquistare, a conoscere. Sì, beh, il problema che siamo posti era quello di ovviamente trovare, oltre agli obiettivi formativi, anche di pensare alla prospettiva occupazionale. Questo è il punto forse più importante, quindi cercare di creare una nuova figura professionale che lavorasse ovviamente nel settore agroalimentare e gastronomico, però che sapesse raccontare al pubblico e soprattutto anche agli stranieri i prodotti buoni, cosa c'è davvero nei prodotti buoni, come vengono fatti, qual è il territorio che li esprime, la cultura che li esprime, prima che, cioè, far parlare il prodotto, far parlare l'anima, diciamo, e il cuore del prodotto prima che questo prodotto ci arrivi al palato. Cioè, facciamo un esempio, io per dire, potrei essere, non so, un importatore estero, russo, che è interessato, sì, a prodotti dell'agroalimentare italiano, vengo in Italia per comprare la solita partita di olio d'oliva, mettiamo. Poi a un certo punto so che c'è qualcuno che mi può aiutare a conoscere una nuova variante, un nuovo prodotto, qualche cosa di più da importare, e mi rivolgo a lui e lo pago, un consulente. Sì, diciamo che potrebbe essere anche visto in questa maniera, però pensiamo anche al turismo gastronomico senz'altro, però anche al paniere delle comunicazioni, alla produzione, alla ristorazione, all'hotelleria, ci sono un sacco di possibilità. Con questa nuova professione. Quando parte il corso? Ci dica questo, poi ci dica anche quando viene presentato a Expo. Cominciamo con la data del corso. Il corso parte il 14 settembre, dura 6 settimane, quindi si conclude il 23 di ottobre. È dalla prima edizione? No, in realtà. No, è la terza edizione, le prime due, diciamo, sono state un po' un esperimento che ha funzionato molto bene. E quindi adesso partiamo veramente con un corso veramente importante. E quali sono i requisiti per poter partecipare a questo corso? È solo essere laureati, è aperto ai laureati di tutte le discipline. Ah, quindi è una sorta di master, specializzazione. Non è un master, no, è un corso di alta formazione. Ho sbagliato, no. Me l'aspettavo di sbagliare. No, ma non si proprio, succede spesso. Il master è una cosa molto più ampia, molto più lunga, di solito si svolge in un anno. Noi abbiamo condensato, anche perché ovviamente la situazione economica del paese è quella che è, bisogna trovare ovviamente anche degli allievi, una forma, diciamo, che si possono permettere, sì, di fare questo corso a un prezzo. Certo. Avrete una presentazione, un passaggio a Expo di questa iniziativa? Abbiamo un passaggio a Expo allo showroom Erica, che è nel quartiere Brera, il sabato 13 giugno dalle 11 alle 20, e lì sarà possibile anche degustare le nostre delizie, i nostri geologi chef, li chiamiamo così. Perfetto. E quindi daranno anche dimostrazione di come si può tradurre il cibo anche parlando mentre si cucina. Narratore del gusto, bellissimo. Vi passiamo a trovare. Narratore del gusto e della cultura, perché è molto importante abbinare anche questo concetto. Certo. Grazie per essere stato mille. Con noi, Rodolfo Coccioni. Questa era la notizia, insomma. Adesso siamo quasi in chiusura, abbiamo forse tempo anche per sentire l'ultimo ascoltatore. Ottimo. Così anche con perché noi. Poi dobbiamo decidere il premio. Esatto. Marco da Roma, vai, buongiorno. Marco? Buongiorno. Marco da Roma, sì. Io volevo parlare della professione che ho sempre sognato di fare. Sì. Che è quella di pilota. Nella mia infanzia io mi addormentavo pensando di pilotare aerei e elicotteri. Ah, ecco, eravamo curiosi di capire pilota di cosa, se era di Formula 1 o di aerei o di elicotteri o di che cosa, no, o di astronavi. Aerei e elicotteri, ed è quella poi la professione che poi ho fatto, il pilota d'elicottero. Ah, però sei stato fortunato allora. O molto bravo. Perché avrei pagato per fare il pilota d'elicottero, invece mi hanno pagato. Non lo dica ad alta voce, che se stanno ascoltando i suoi datori di lavoro non la pagano più. Ieri hai lavorato, Marco? No, no, ieri ero a casa con i miei e guardavo i Black Bloc all'opera, all'azione a Milano. Sì. Va bene, Marco, grazie per averci chiamato. Mille. Adesso il cervellone di Si può fare elabora la risposta. Chi vince? Vince Romano d'Assondrio. E questo... io non posso farlo con la mia R. Romano d'Assondrio, che proponeva di mandare i Black Bloc a tagliare la legna, in pratica. E che lui ieri, 1° maggio, ha tagliato la legna per il suo inverno. Ci ha raccontato un bel 1° maggio in cui insieme al figlio 16enne tagliavano insieme la legna, e il figlio gli ha detto: ma questi Black Bloc perché non li mandano un po' a tagliare la legna, che così di giorno sarebbero stanchi padre e non potrebbero devastare e figlio le banche? Vincono il cesto a base di aspargolosa del comune di Mezzago, messo a disposizione dai comuni virtuosi. Grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 8:30 fino alle 11 con Si può fare, la puntata della domenica. Grazie ad Andrea Piana, che ha scritto insieme a noi il programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Daniele Buonamici in assistenza oggi in diretta insieme a Claudia stessa, Peter Bescapa in regia. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizi. Ciao, a domani.